Alla sera nel letto io aspetto che tu ti avvicini a me, mentre invece tu leggi un romanzo, poi spegni la luce, girandoti i profumi di te, tutta l'aria d'intorno. Così io mi sento ferito nell'orgoglio e non dormo. L'ottantesima mia sigaretta mi dà un gran bruciore alla gola. La radio compagna di notti che sanno di niente diffonde allegria, di noia e di ipocrisia. Pian piano l'amore è finito, ho deciso. Lascia stare, io ti amo. Vuoi tacere? Cosa vuoi? Amore, amore. Lascia in pace il bambino, stavolta non cedo ai ricatti. La sua culla coperta di fiori, ricordi l'amore? Da grande son certo che lui capirà e mi saprà perdonare. Ho deciso. Che hai deciso? Me ne va. Io ti amo. Vuoi tacere? Cosa?